Beh, è nata in realtà da un gruppo di docenti universitari che ci hanno contattato, quindi in realtà non è neanche nata da noi, noi ci siamo fatti promotori insieme ad altri, all'EFT, eccetera. L'abbiamo lanciata questa campagna per Riace e Domenico Lucano, premio Nobel per la pace, perché crediamo che in questa epoca in cui assistiamo ad una barbarie assolutamente inconsueta, e quello che è ancora più inconsueto è che questa barbarie è raccontata dai media nei minimi dettagli, eppure tutto questo non produce una reazione delle coscienze, ma anzi al contrario, ci si accanisce ancora di più contro i migranti, nonostante i casi di cronaca, la carovana centroamericana, la bambina che muore disidratata, i muri che si alzano, i morti annegati nel Mediterraneo, tutto quello che succede non provoca disgusto, non provoca indignazione, provoca indignazione invece l'arrivo dei migranti, no? Io da un po' di tempo dico che si parla tanto di emergenza migrazioni, ma l'emergenza migrazioni non dovrebbe essere quella dei migranti che arrivano sani e salvi sulle nostre coste, ma di quelli che muoiono in mare, invece di quelli non se ne parla mai. Allora in questo scenario mondiale in cui vengono negati i diritti umani delle persone che cercano una vita migliore, crediamo che Riace rappresenti esattamente l'opposto. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Lucano hanno in qualche modo reso Riace un simbolo, e allora noi vogliamo che questo simbolo, con tutto quello che rappresenta, acquisisca importanza, e per questo abbiamo accettato di candidarla al premio Nobel per la pace. Un premio Nobel che potrebbe essere un segnale, un ennesimo tentativo di risvegliare le coscienze? È quello che possiamo provare a fare, noi non governiamo, non facciamo le leggi, quello che possiamo fare al basso, attraverso i municipi, attraverso gli esempi concreti, è proprio quello, provare ad incidere sull'opinione pubblica, perché attraverso un cambio di sentimento dell'opinione pubblica potrebbero poi cambiare le politiche dei governi. Quindi è quello che ci resta da fare dal basso, provare, come abbiamo sempre fatto, a far conoscere le buone pratiche. Secondo noi Riace è molto più di una buona pratica, è qualcosa che, come abbiamo in realtà anche proprio costruito negli ultimi anni in molti paesi, è qualcosa di replicabile, qualcosa che si può fare, è qualcosa che permette di vivere le migrazioni non come un problema di sicurezza, non come un'invasione, ma come un'opportunità per i territori che accolgono, perché a Riace, così come a Giuliosa, Cinque Fronti, tutte le realtà in cui si è praticata l'accoglienza diffusa, in realtà i migranti hanno dato più di quanto hanno preso, perché la presenza dei migranti ha prodotto un indotto economico, ha prodotto posti di lavoro, ha prodotto tutta una serie di effetti positivi che vanno dall'aprire la mentalità delle persone, al confrontarsi col mondo, fino agli effetti molto più pratici ed economici. E allora Riace premio Nobel per la pace, perché vogliamo che tutti quanti conoscano questa esperienza, che sappiano che le migrazioni non devono necessariamente essere vissute come un problema, ma possono essere anche una risorsa. Tu prima hai citato ovviamente la vicenda giudiziaria che ha investito Mimmo Lucano, però c'è stata anche, come dire, un altro tipo di aggressione, diciamo così, da parte del Viminale. Ti volevo chiedere se il modello Riace è stato smantellato. Il decreto Salvini cancella l'accoglienza diffusa in Italia, quindi di fatto non chiude soltanto Riace, ma chiude tutte quelle esperienze, come quelle che citavo prima, che hanno replicato Riace. Chiude il sistema dello STRAR, che non esisterà più se non in maniera molto molto residuale, quindi molto probabilmente dagli attuali più di 1800 comuni che praticano l'accoglienza diffusa, lo Stato si limiterà a finanziarne 200-300, per cui di fatto viene abolito quel sistema a favore invece dei grandi centri, a favore del business dell'accoglienza, a favore di quelle grandi strutture che in questi anni hanno favorito le infiltrazioni della criminalità organizzata. La scelta è molto chiara, i sistemi che funzionano e che danno un'alternativa alle tensioni sociali, all'odio, devono essere distrutti, perché invece bisogna favorire i ghetti che produrranno ulteriori tensioni sociali e di conseguenza ulteriore consenso per chi specula su questi fenomeni. I cittadini e le cittadine possono sostenere questa campagna? In che modo? Si può firmare, basta fare una ricerca sul nostro sito della rete dei comuni solidali, che è comunisolidali.org, oppure su Facebook, e si può mettere la propria firma e dare il proprio sostegno a questa candidatura.